Il punto di Stefano Folli. L'affanno con cui il Parlamento tenta di approvare la legge finanziaria è una tradizione antica di decenni. Ha superato indenne i terremoti della politica e le velleità dei vari governi. Nessuno è riuscito a trasformarlo in qualcosa di diverso da un mercato, fino alla conclusione, che è sempre il voto di fiducia. Quest'anno è persino peggio del solito, anche perché l'approvazione del testo si intreccia con il voto sulla decadenza di Berlusconi, vale a dire un passaggio a suo modo drammatico della vita parlamentare. Chi osserva da fuori vede la fotografia di un sistema politico debole e confuso e capisce perché è così difficile ottenere le risposte giuste alle esigenze dei cittadini. Prepariamoci quindi, la giornata di domani sarà un altro momento convulso. Sarà il giorno in cui il Parlamento espellerà un personaggio come Berlusconi. Le ragioni ci sono, ma il clima in cui si svolge l'ultimo atto è più idoneo a un'arena di gladiatori che a un consesso civile.